alle 10, c'è qualcuno in ascolto? CQ canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Billy? Attento Billy. Attento Billy, cosa curta?